La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле еле. Quando l'ho conosciuto mi ha detto: attenta, io sono un pesce cane. E io già speravo in una sofferenza lunga, interessante e articolata. Invece, dopo una sola notte, per me indimenticabile, non mi ha voluto più vedere. Che ne dici? Che ti è capitato un pesce cane senza denti, che non ce la fa a masticarti più di una volta sola. Un ringraziamento rapido a Marta e Paolo. Grazie, mi avete fatto molto ridere con la vostra proposta di succedere a Napolitano, venuta fuori in una sera in cui ne avevate bevuto uno di troppo. E lo stesso ringraziamento a Pietro Abbondanza. Questo nome, non so se è vero, se è un nickname, in ogni caso ti va proprio bene. Sei abbondante in tutto, sei pazzo dalle gare, ma anche molto molto simpatico. E accetto la nomina che mi conferisci con la serietà con cui al manicomio ci si scambiano i cappelli da Napoleone. Sei di una generosità nel gioco che rasenta il crimine. Non posso leggere qui la tua lettera, però l'ho letta ai miei congiunti e anche loro hanno riso come pazzi. Grazie Abbondanza. Poi, mentre sono io di solito che ripesco colpevolmente delle vecchie lettere cui non ho risposto, questa volta invece un'ascoltatrice, una signora di 79 anni l'anno scorso, 80 quest'anno, Mariangela Ranise, invece è lei che ritrova una lettera che non ci aveva spedito e la rimanda con un grande elogio per il poeta Umberto Polignano. Sono un'interlocutrice insolita, ho 79 anni, ma no, le orecchie non hanno età e le orecchie ce ne sono di tutti i tipi, di quelli che ci ascoltano. Un ringraziamento, per merito suo ho conosciuto il canzoniere di Umberto Polignano, le cui parole ora scorrono come sangue nelle mie vene. Inoltre, e questo segna la civiltà del tempo cui appartiene la signora e cui appartengo anch'io, il Novecento, in quanto scrive a lungo ma dice, manda anche dei versi, non l'autorizzo a leggerli pubblicamente. Sono una cosa strettamente privata, parola che ormai ricorre soltanto nei tribunali, la famosa privacy per cui ci si querela, e leggere in una lettera invece fa molto piacere. Eldrin, puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Sharmanka, Sharmanka. Io vi maledico. No, non è rivolta agli ascoltatori, è il titolo del nuovo libro di Concita De Gregorio. Spesso qui al Faro abbiamo citato due titoli particolarmente di Concita De Gregorio: Malamore, sulle donne picchiate e sul perché sopportino, e Una madre lo sa, dove ci sono esempi di maternità felicemente non canoniche. E li ho citati spesso perché ci sono molte risposte. Sono due piccole bibbie dell'antischema, perché l'autrice, che è una autorevole giornalista politica e per 3 anni ha diretto l'Unità, ha anche intelletto d'amore. Ed è per questo che nel mio libro Riprendetevi la faccia, Concita De Gregorio appare nel capitolo Streghe presenti nel territorio. Secondo la mia definizione di strega, streghe che vuol dire le incivilizzabili, quelle che sanno ridere, non le baccanti sguaiate volute dagli inquisitori. Spesso il loro diavolo le rende sopra ogni altra capaci di grazia, ironia, studio. E non è vero che non ce ne siano più. Tante vivono rassegnate, ma a farci attenzione, appena alzi lo sguardo, è un gran volteggiar di scope. E nel libro si finge che ci siano un inquisitore e il suo scrivano che, a spasso nei secoli, fermandosi nel nostro, guatano le donne d'oggi, sognando patiboli e roghi. E sono un inquisitore che è molto cattivo e lo scrivano un po' meno. E si soffermano anche su Concita De Gregorio nella lista di streghe sovversive con l'aggravante dello studio, dove sono citate per esempio Margherita Hack, Franca Rame, Natalia Aspesi, e queste invece nel paragrafo streghe di nuova generazione. E l'inquisitore dice: ah, questa se la chiappo. segni diabolici tutti, a cominciare da quello che per me la fa condannare a vista. È bella. Non è colpa sua, ma la pagherà cara. Se almeno fosse stata Racchia, non mi avrebbe poi tanto sconvolto che dirigesse un giornale importante della sinistra. Che orrore, tutta quella forza in una biondina che è pure madre di 4 figli. È la cerbiatta ideale per una muta di cani. E tale è l'impressione che ha fatto a me in certe sue apparizioni in TV, in cui i maschi della banda berlusconiana l'aggredivano con argomentazioni ignobili, senza alcun rispetto di sé, non dico di lei. E Concita De Gregorio, davanti a questi attacchi, non ha mai perso la testa. Io non capisco come faccia a rimanere calma, a opporre una specie di superiorità della ragione. Comunque nel libro, a questo punto, il più giovane dei 2 inquisitori, lo scrivano, in verità vorrebbe salvarla. E azzardo una confessione. Perdonate, monsignore. Pensavo a una scena di Blade Runner, quando, nella stanza dell'inventore di giocattoli, i giocattoli si ritrovano e si riconoscono dagli uomini per un meccanismo di sofferenza che li rivela sempre. In Concita ho scoperto il mio fratello giocattolo. Cognizione del dolore e intelletto d'amore li ritroviamo anche in questo libro di Concita De Gregorio, Io vi maledico, pubblicato da Einaudi Stile Libero. Il titolo, Io vi maledico, viene da una lapide che un operaio dell'Ilva di Taranto ha messo sotto casa sua. Io vi maledico è un libro sulla rabbia. Questo dal prologo del libro. Sono tanti anni che seguo la politica da vicino, è il mio lavoro. Non avevo mai vissuto, tuttavia, niente di simile a quello che stiamo tutti quanti oggi vivendo. Un disorientamento così assoluto, una perdita repentina di ogni punto di riferimento. Una classe politica che ha rinunciato a occuparsi del fatto che la metà dei cittadini non va più a votare e si trincera dentro un recinto ogni giorno più esiguo, che canta vittoria quando, dentro quella minoranza, ottiene la maggioranza. Si vincono le elezioni oggi coi voti di 1 cittadino su 10. Il libro è uscito prima delle elezioni. Volevo scrivere un libro sul lavoro, pensavo. E la perdita del lavoro, l'origine del vortice di frustrazione, disillusione e paura che ci ha condotti qui. E quello è il punto di rottura, il luogo in cui sparisce la solidarietà e la condivisione che sono alla base dell'idea di democrazia. Perché se non hai di cosa vivere, ogni vicino è tuo nemico. Se non hai dignità, non hai niente altro di altrettanto prezioso da perdere e vale tutto allora. Vale la legge della giungla. Che tu abbia 20 anni o 50, non importa. Così ho cominciato a raccogliere storie di lavoro smarrito, negato, rubato. La storia del minatore del Sulcis che voleva andare X-Factor invece sta sotto, ovvero in fondo alla miniera, da quando aveva 20 anni, e dice: hanno svenduto la mina per chiuderla, non gliene frega niente di noi. Quella delle donne del call center Artesia che rispondono la notte ai maniaci: in cosa posso esserle utile? Sono Laura. Perché si riattaccano, non prendono nemmeno gli 80 centesimi lordi a chiamata. Quella della figlia dell'operaio di Pomigliano che ha scritto Marchionne 2 volte. E poi i ragazzi che se ne sono andati dall'Italia a cercare lavoro e quelli che sono tornati perché gliene hanno promesso uno ed era un imbroglio. Poco a poco, come le pietre di una collana, tutte queste storie diventano un rosario. Non di una preghiera, però, di una maledizione. Diventavano tutti i colori della rabbia, la geografia del disamore per chi ti ha promesso e poi negato, per chi ti ha illuso, per chi sa solo chiederti e mai dare, contro i corrotti che tanto si sa come vanno le cose, contro i potenti che sono tutti uguali, contro l'Italia, alla fine. Quando sono andata a Taranto a parlare con le vedove degli operai uccisi dal cancro, all'Ilva, sotto la casa di una famiglia sterminata dal tumore ho trovato una lapide, fatta mettere dall'ultimo dei morti quando era ancora vivo e combattivo, quando sperava che non sarebbe toccato anche lui. Io vi maledico, ha scritto sulla pietra. Maledico voi che sapete cosa ci state facendo, voi che lo fate e voi che guardate in silenzio, i colpevoli e gli indifferenti, i padroni e i politici, i sindacati e i preti, voi che non ci ascoltate. Così questa storia è andata altrove, si è incamminata a ritroso verso le radici della rabbia, di tutte le rabbie, di cui è fatta l'ostile indifferenza per il prossimo, Il passeggero dell'autobus che ha malmenato l'autista perché non si era fermato nonostante lui avesse dimenticato di suonare il campanello. Il cinquantenne che al parcheggio ha distrutto a sassate la macchina del tipo che secondo lui gli aveva rubato il posto. Il dipendente che ha preso a schiaffi e pugni la dirigente d'azienda che gli aveva comunicato un trasferimento. Questo per citare tre episodi avvenuti solo a Roma nell'ultimo mese. Quella che oggi molti chiamano con timore antipolitica, ma altro non è in effetti che un disperato bisogno di essere ascoltati, di trovare un posto. Un sindaco della Val di Susa, Carla Mattioli, insegnante cattolica di famiglia democristiana, mi ha raccontato con moderazione estrema le ragioni della contrarietà dei valligiani all'alta velocità e la miopia e gli interessi di chi ha cavalcato la protesta e sta sperando lo scontro. Cinque donne sindaco di Calabria e Sicilia hanno illustrato con parole semplici che cosa significhi governare per 800 euro al mese in terre di mafia e 'ndrangheta, mentre altrove, a Roma, Milano, sul nord, milioni di soldi pubblici corrono per i festini e le crociere dei politici corrotti. Un ministro, Fabrizio Barca, la chiama politica estrattiva, quella di chi estrae, come miniera, denaro per il suo esclusivo interesse. Ma io vorrei leggervi da questo libro ciò che Concita De Gregorio scrive di Hulk e di Mario Balotelli. Il capitolo si intitola Hulk. In The Avengers, film campione di incassi nel 2012 e abbecedario dei supereroi americani dell'ultimo mezzo secolo, la scena madre dell'incredibile Hulk è quella in cui rivela il suo segreto. Come ha imparato a controllare la rabbia? Gli chiedono i suoi colleghi variamente superdotati. Già che si sa che Hulk è il compagno di squadra che nessuno è del tutto felice di avere nel team. Hulk è il più forte di tutti, ma anche l'unico incapace di dominare il processo che lo trasforma in superuomo. Non lo fa apposta. Diventa Hulk quando si arrabbia e poi è preda di una furia cieca e pericolosissimo per i suoi stessi alleati. Dunque, gli chiedono, dopo averlo visto per la prima volta, in qualche modo governare se stesso. Bravo, ma come hai fatto? Col sorriso gentile e gli occhi timidi, risponde così. Il mio segreto, sapete, è che sono sempre arrabbiato. I bambini a questo punto in sala applaudono, applaudono anche gli adulti. L'incredibile Hulk è il quinto supereroe più amato di sempre, eppure non è affascinante, né elegante, né buono nel senso classico dell'eroe giusto e generoso. È brutto, anzi, fuori controllo e dannosissimo. Una forza cieca e primitiva che domina il suo alter ego, lo sfortunato scienziato Bruce Banner. Timido e riservato, Banner inventa una bomba a raggi gamma e ne resta vittima in un incidente di laboratorio. Da quel momento, ogni emozione che gli suscita rabbia o dolore lo trasforma in un mostro verde alto 3 metri di violenza sovrumana, invulnerabile e rissosissimo. Da bambino Banner rimase orfano di madre, uccisa dal padre alcolista. Poi cito un articolo di psichiatria dove è scritto «Tutti i bambini soffrono a causa della rabbia repressa». E l'autrice commenta «La repressione culturale della rabbia infantile e la censura sociale, nel suo più semplice sfogo, il pianto, produce la maggior parte delle forme di esternazione distorta della rabbia negli adolescenti e negli adulti». Hulk è quel bambino lì. È la trasposizione in eroe dolente di un caso psichiatrico. È l'incarnazione della psiche infantile violata. Come i bambini molto piccoli, infatti, parla di sé in terza persona. Hulk è arrabbiato, Hulk ha freddo, ha un vocabolario limitatissimo. Inoltre, è verde, il colore della rabbia. Ho un vulcano nella pancia. No, no e poi no, che rabbia! Sono alcuni dei titoli che si trovano nelle sale d'attesa dei centri specializzati degli studi di neuropsichiatria infantile. E il capitolo seguente, il lettore se vuole può fare un legame, parla di Mario Balotelli e si intitola proprio Balotelli. L'epigrafe è «Che era incazzato nero già da piccolo» e qui si spiega perché. La guardiana del faro. Continuo a leggere dei brani dal libro di Concita De Gregorio, Io vi maledico, pubblicato da Einaudi, Stile Libero, e in particolare stiamo parlando di Balotelli, capitolo 6, Balotelli. Cristina, la sorella. Ho perso gli ultimi 3 anni della mia vita a parlare di Mario. Ora basta, non ne posso più. Giovanni, il fratello. Da piccolo i miei lo portavano a nuoto, a ginnastica, gli facevano fare 2 sport al giorno, qualunque cosa, purché si stancasse. Andrea Ferrarese, amico d'infanzia. La prima cosa che ho saputo di lui è che faceva la pipì dentro gli zaini degli altri bambini. Non avevamo ancora 10 anni. A scuola ci dicevano che era stato malato, che i suoi veri genitori lo avevano abbandonato e che dovevamo avere pazienza. Mi ricordo che in bagno si lavava le mani con l'acqua bollente. Una volta mi disse: così diventano bianche. Mauro Tonolini, ex presidente dell'Uso Monpiano. Quando è arrivato qui a 5 anni, era l'unico bambino negro di 250. Tiziana Gatti, maestra di scuola. È stato il caso più difficile con cui mi sia mai confrontata. Aveva un problema di identità evidente. Si dipingeva la pelle di rosa coi pennarelli. Gli domandavo: è così che ti vedi? Mi ha chiesto più di una volta se anche il suo cuore dentro era nero. Gli spiegavo di no, ma dopo qualche giorno me lo chiedeva di nuovo. La famiglia in cui viveva, per problemi burocratici, non poteva adottarlo. Dovevano rinnovare periodicamente la tutela. Ricordo che non aveva documenti e che doveva spesso visitare la sua famiglia biologica. Ogni volta che rientrava da quelle visite mi diceva: maestra, domani mi fanno tornare in Africa? Mi ricordo che a ricreazione un giorno gli demmo come a tutti una banana. Uscì di corsa dalla mensa, arrabbiatissimo, offeso. La signora Maria, barista di Brescia. Ancora adesso, quando passa, certe volte lo fischiano dalle finestre, gli tirano cose dai balconi. Giovanni Valenti, primo allenatore del Monpiano. Quando andavamo in trasferta, dovevamo sempre parlare con lo speaker per chiedergli che lo annunciasse come Mario e non come Barvua, il suo cognome. Se questo non accadeva, lui si rifiutava di scendere in campo. Marco Pedretti, compagno di squadra nel Lumezzane. Era anche simpatico, ma tremendamente pesante. Arrivava un momento in cui non lo potevi più sopportare. Cambiai squadra. Andrea Ferrarese. Mi ricordo una festa di compleanno a casa sua. Tutti i bambini giocavano a giochi organizzati dai suoi genitori. Lui stava in corridoio a dare colpi con la palla al muro. Lo consideravano tutti un po' matto. Alle bambine faceva paura. Pierluigi Casiraghi, tecnico dell'Under 21 Azzurra. Credetemi, non è matto. Io ho giocato con Gascogne. Vincenzo Esposito, ex tecnico della giovanile dell'Inter. È un provocatore. Il problema è che non sa calcolare le conseguenze dei suoi gesti. Una volta parlavo ai ragazzi per prepararli a una partita importante. Lui si allontanò e tornò leccando un cono gelato. Si misero a ridere tutti. L'avrei ammazzato. Giovanni Valenti è sempre stato il più bravo. Walter Salvioni, allenatore del Lumezzane. Lo convocai in una partita contro il Padova. Loro secondi, noi penultimi. Mancavano 30 minuti e stavamo perdendo. Lo feci entrare. Vincemmo. Sergio Viotti, portiere di riserva nell'Under 21, suo amico da quando avevano 6 anni. Diceva sempre che sarebbe stato il primo negro a giocare in nazionale e che non festeggiava i gol perché lo avrebbe fatto solo il giorno che avesse segnato per l'Italia nella finale dei mondiali. Papa Dodson, calciatore ghanese. Quando i miei amici lo hanno visto buttare a terra la maglia dell'Inter, hanno detto: pessimo negro. Il barista Giuseppe, marito della signora Maria. Ormai in giro ci sono tanti ragazzi neri che parlano dialetto, nati e cresciuti qui. Lui poteva essere per loro un esempio. Poteva aprire tante porte a chi ha dei problemi. Invece no, perché è proprio uno stronzo. Marco Pedretti. Un giorno, all'epoca in cui ero all'Inter, mi chiamò. Era tempo che non lo vedevo. Mi chiese se volevo passare il suo compleanno con lui. Un giro, un bicchiere. Era solo. Andammo. Gli dissi: ma che hai? Sei incazzato nero? Poi, già mentre lo dicevo, mi resi conto. Pensai: adesso mi tira un cazzotto. Invece mi guardò un po' così. Poi si mise a ridere. Padre McMahon, della chiesa St. John a Charlton. È venuto la notte di Natale con una ragazza e un'altra coppia. È rimasto tutto il tempo in fondo alla chiesa. No, non si è confessato. Un po' mi è dispiaciuto. Mi sarebbe piaciuto parlarci. Però, se devo essere onesto, ho anche pensato: il diavolo oggi, meglio che se lo tenga per sé. Noel Gallagher, musicista, ex frontman degli Oasis. Dimenticatemi, gente. La nuova rockstar qui è Balotelli. Carlton Myers, padre caraibico e madre italiana, campione europeo di basket. Quando vedo Balotelli, mi ricordo me stesso da giovane, un tipo con una rabbia dentro che lo divora. Mi piacerebbe parlarci. Tra noi non servirebbero troppe parole. So di cosa si tratta. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Gentile guardiana, dopo 9 anni di fidanzamento a distanza, 140 chilometri, vedendoci 2-3 giorni a settimana e dopo aver rispettato i suoi tempi e le sue esigenze di madre, dotata di eccessivo senso di controllo sulle due figlie, le ho chiesto di sposarmi. E lei è entrata improvvisamente in crisi, facendomi scoprire che da tempo, forse 2 anni, non mi desiderava più e soprattutto non sentiva alcun bisogno della mia presenza. Ed io sono sulla mia scialuppa solitaria e triste. I suoi consigli mi sarebbero utili? Non lo so, ma graditi di sicuro. Un abbraccio dal naufrago d'amore. Una sintesi fulminante in 5 righe. Però ciò che scrive, caro naufrago, fa sospettare che le figlie fossero una scusa dall'inizio, che più che controllare loro, la sua amante non volesse essere controllata da lei. Qui abbiamo una gran simpatia per i maschi che amano davvero e che prendono delle fregature. La sua amata poteva pure dirglielo che se ne infischiava da un bel pezzo. Allora oggi diamo 10 lodi a lei per la sua intensità amorosa e per la sua capacità di farsi ingannare, che è una grande qualità. E 3 in condotta con Biasimo a questa donna che contava sulla distanza per non farle capire che distante lo era comunque, sostanzialmente. Io credo che la sua scialuppa sicuramente si aggrapperà qualche naufrago affascinante e le dedichiamo pure una canzone del tempo che fu, che si addice ai naufraghi e a chi soffre di nostalgia. Pare che sia stata scritta da un soldato italiano prigioniero in India, uno che aveva desiderato di potersi dedicare alla musica. E poi inaspettatamente viene la guerra, viene preso prigioniero e mentre sta prigioniero degli inglesi ha questa grande fortuna. La prigioniera si rivela un modo di coltivare la sua passione. Mette su un'orchestrina e un giorno, per nostalgia della sua donna mentre passeggia in questa città sconosciuta, scrive questa canzone. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo non sei tu, ogni voce ascolto non sei tu. Dove sei perduto amore, ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticare, il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo un fondo al cuore. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore. Mi ha scritto una lettera Max, scusandosi continuamente per il suo italiano. Ma guarda Max, non c'è motivo, è una lettera ben scritta e non so quale complesso immotivato tu abbia coltivato nel tempo, però sono solo costretta a riassumerla in parte perché è parecchio lunga. La storia di Max è questa: a 30 anni si innamora di un ragazzo, si innamora nel senso pieno della parola, per lui non c'è nient'altro e questo gli dà anche il coraggio di fare coming out in famiglia dicendo ai suoi genitori di essere gay. I genitori la prendono benissimo e seguono 7 anni di piena felicità. Poi un giorno l'altro gli dice: ho baciato una ragazza. Proprio lui, che era rigoroso nella sua scelta, quasi un teorico della omosessualità come scelta univoca, ma non si tratta solo di un bacio. In verità lui e la ragazza si sono innamorati e si mettono insieme. Però Max gli rimane sempre vicino, come amico e come confidente. Come nelle più classiche delle storie, con lei non va bene. I giorni in cui non si parlano sono di più di quelli in cui si parlano. Lei però è donna e lavora con lui. Io ero a 50 chilometri e questo gli ha sempre dato fastidio. Lui sta male ed io faccio quello che tu dici sempre di non fare. Sono lì, pronto a consolarlo e medicargli le ferite. Al suo compleanno litigano e io lo consolo. A Natale non si parlano ed io ci sono. A Capodanno lo lascia solo ed io eccomi pronto. Sì, Barbara, stai pensando che è una storia già vista e che mi sta bene, ma non posso far diversamente. Quando ci vediamo o parliamo, la sintonia tra noi è magica. Ridiamo, scherziamo, piangiamo insieme delle stesse cose. Io lo amo e continuerò a farlo. È tanto stupido. Forse sì, ma non posso fare diversamente. Solo una cosa ho capito della vita, che è meravigliosa perché ci sono i sentimenti. Non voglio comprimerli. Ora sono passati 8 anni e io sono sempre il suo. Per lui ci sarò sempre. Anche se oggi mi ha detto che magari è meglio non sentirci più, perché non è giusto nei confronti di lei, che ieri definiva persona indegna. Alle volte sono disperato per questo amore perso. Alle volte sono felice perché comunque ho vissuto potendo amare. Non esiste un sistema per amare. Le strade che il Signore ha disegnato per noi non sono tutte uguali e soprattutto non le conosciamo. Però magari morirò di speranza. Ma sapendo cosa prova Lui per me, credo che un giorno tutto questo amore non verrà sprecato e potrà farci tornare insieme, e sono sicuro anche più forti di prima, perché ora ci conosciamo meglio. Io stesso ho scoperto cosa veramente provo per Lui. Ti chiedo un piacere. Lui ti ascolta. Digli solo di farmi come regalo, anche se mai ci sentiremo più, di cercare di stare bene, di trattare bene non solo il suo corpo, ma anche il suo cuore e la sua anima. Non dire il suo nome, tanto lui penso avrà già capito, perché è meglio non incasinargli la vita. Grazie di cuore, Max. Max, prima cosa, che mi possa colpire un fulmine direttamente in testa, se mai nella vita ho suggerito di fare dei trucchi in amore. Hai frainteso? Io ho sempre suggerito di fare soltanto ciò che si sente, a qualsiasi prezzo. O comunque, circa la tua richiesta, io al tuo amico glielo dico, cerca di stare bene, tratta bene non soltanto il tuo corpo, ma anche il tuo cuore e la tua anima. Però non è per lui che mi preoccupo, lui sta benissimo, siete in due ad amarlo, lui va dall'uno all'altra. E anche la situazione della ragazza non è invidiabile, perché lui appena litiga con lei te la dà in pasto e la vostra eterna storia adesso come base ha il parlar male di lei. Io penso però che tu sia molto fortunato. Hai trovato la tua felicità dolorosa, hai un sentimento assoluto, ti sei votato a lui e poi di fatto hai ragione quando dici che state insieme, che ci sono molti modi di stare insieme e il vostro è uno di questi. Io non so se è il Signore, come dici tu, che segna le vie dell'amore. Sono incline a credere piuttosto che siano i nostri sentimenti. Tu li segui e ciò è perfetto. C'è una grande bellezza in questo. Grazie della confidenza e della parte di lettera che non ho letto e che è bella davvero. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Non leggerò la lettera di Domenico perché diffondere stupidaggini è un atto diabolico. Dirò solo che l'argomento fondante è una cosa originalissima: che le donne sono tutte puttane. Io non mi soffermo a commentarlo. Di solito una lettera così mi troverebbe molto impaziente. Però qui c'è qualcosa di così straziante. Si vedono in trasparenza tutte le frustrazioni, le disgrazie, le sconoscenze di chi scrive, la mancanza di qualsiasi strumento. E l'autore alla fine fa compassione. Compassione non nel senso offensivo, proprio di patire con. E più che giudicarlo, ho patito un po' con lui. Ma se parlo di questa lettera è per una parola che mi ha colpita. Geisha, usata tout court come prostituta. Io sono molto ignorante della cultura giapponese. Vorrei far parlare chi sa, una studiosa di lingua e letteratura giapponese, Maria Chiara Migliore. Pronto, Chiara? Pronto. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. E appunto l'abbiamo chiamata soprattutto per essere illuminati su questa parola così compromessa, geisha. Partiamo dall'istruzione. La società giapponese si è sempre rifatta all'ideologia confuciana cinese, perché la Cina era il faro culturale di tutta l'Asia orientale. Il Giappone prende tutto dalla Cina e prende soprattutto questa ideologia confuciana in cui l'istruzione rappresentava uno dei cardini principali per la costruzione di una società perfetta. Era questa l'utopia del confucianesimo: avere l'istruzione e la cultura per tutti. Perché soltanto attraverso la cultura si poteva elevarsi spiritualmente. L'elevazione spirituale era personale, però tutti quanti acculturati significava avere una uniformità morale di tutta la società. E quindi si tratta ovviamente di un'istruzione riservata al sesso maschile, perché la donna era considerata intellettualmente inferiore, ma questo ormai insomma ci abbiamo fatto il callo in tutte le ideologie, un po' così. Però ovviamente anche la donna doveva contribuire alla creazione di questa utopia, di questa società perfetta, e quindi anche lei doveva essere colta. Quindi abbiamo più che in Cina, in Giappone, una donna estremamente colta, che poetava in cinese, che sapeva cantare, che insomma appunto era sapeva scrivere, sapeva leggere, componeva poesie e soprattutto poi abbiamo intorno all'anno 1000 questo florileggio incredibile letterario di dame di corte che scrivevano i propri diari, le proprie memorie, scrivevano romanzi. Il primo romanzo giapponese scritto intorno al 1000, che è anche il primo romanzo mondiale al mondo, no? E appunto di questa dama di corte si intitola La storia di Genji. Dunque l'istruzione, la cultura, la donna doveva essere colta e doveva appunto avere una grande istruzione. E a maggior ragione se poi la donna era una cortigiana. E le cortigiane, come in tutte le società, evidentemente anche in Giappone, esistevano ed erano subito caratterizzate dall'arte, no? Oltre che ad essere belle dovevano sapere poetare, cantare, suonare, danzare. E la prima cortigiana in assoluto della storia che conosciamo si chiama Koshima, sappiamo anche il nome, e la conosciamo perché in questa magnifica raccolta di poesia giapponese, la prima raccolta di poesia giapponese, la più antica, che è un monumento letterario in Giappone e che si chiama Manyoshu, raccolta di 10.000 generazioni o raccolta di 10.000 foglie, non si sa, che stiamo traducendo in italiano integralmente, è un progetto che mette insieme appunto gli specialisti di letteratura classica giapponese in Italia. Due poesie sono sue, di questa cortigiana. Queste due poesie parlano già della condizione della cortigiana in Giappone, della condizione della donna, come sarà poi nei secoli seguenti in Giappone, perché lei era la cortigiana di un signore, di un governatore di provincia. Non è ancora una geisha. Geisha è un termine moderno che compare intorno alla seconda metà del XVIII secolo. Prima si chiamavano ukareme, oppure asobime, oppure yujo, insomma ci sono vari termini per indicarle. Letteralmente vuol dire colei che da casa sua va a casa di un ospite per intrattenerlo con canzoni e colei che va ad intrattenere, no? Ecco, sì, colei che si muove, perché pare che fossero gruppi di, anche misti, di uomini e donne che giravano per le province e andavano a intrattenere i vari signori, oppure anche la capitale, insomma pare che fossero gilde di artisti. Ma senti Maria Chiara, e quindi la donna che va è importante perché le donne stanno sempre ferme, perché hanno i piedi fasciati? No, quella è una barbarie cinese e non ha niente a che vedere con il Giappone. È una favola! Sì, no, in Giappone toccare il corpo umano per mutilarlo o per ferirlo era un tabù. Non esistevano neanche gli eunuchi in Giappone, perché l'eunuco appunto no, deve subire questa operazione barbara, e in Giappone non si sono mai sognati di fare una cosa del genere. Quindi l'epoca in cui racconti tu le si chiama ancora la donna che va. E poi appunto questo termine, come nasce geisha? Ma non si sa, compare nei testi della capitale intorno, cioè proprio un testo in cui ne parla di geisha, ma all'inizio geisha è un termine assolutamente neutro. Geisha significa, sha è un suffisso che significa persona, gei significa arte, quindi insieme geisha significa artista. Infatti all'inizio erano artisti maschi o femmine, molto probabilmente divisi anche in gilde, che appunto poetavano, cantavano. Erano delle truppe teatrali che però si esibivano in strada e non a teatro. Poi successe che nel periodo di Edo, in cui appunto si ha questa meravigliosa cultura borghese nella città di Edo, che oggi è Tokyo, la famiglia Tokugawa, che era al potere e che era estremamente confuciana, quindi voleva una società perfetta e soprattutto non voleva disordine, perché il confucianesimo quello aborrisce, il disordine. Allora, non volevano disordine di queste persone che andavano in giro, facevano l'arte, erano artisti, parlavano, cantavano. Non volevano i saltimbanchi. Li volevano, ma li volevano controllati, soprattutto in posti ben definiti, per cui crearono i famosi quartieri di piacere nelle varie città giapponesi e li relegarono lì. Che non sono solo dunque i piaceri del sesso, ma sono i piaceri dell'arte, sono i piaceri dell'intrattenimento. Però in questi quartieri ovviamente confluirono anche le prostitute. E un po' alla volta geisha diventò solo femmina e diventò anche prostituta. Sinonimo. Anche a livelli. Però c'erano vari livelli, insomma, non è tutto come noi lo vediamo, no? Da qui tutto uguale. Cioè, ma quindi non è una stortura dell'Occidente questo fatto di geisha? La confusione nasce prima anche in Giappone? Possono essere prostitute, possono essere non prostitute. Tibet, e non è molto chiaro nei testi, o comunque insomma ci sono varie discrepanze, ma una cosa chiara, chiarissima, è che queste geisha erano schiave. Ora, noi abbiamo questa idea, no, del Giappone, della geisha come questa dama raffinatissima che canta, che danza, che fa poesia. Ma non è libera, diciamo, come l'etera greca? Ma per l'amor del cielo era venduta. I genitori vendevano le proprie figlie che, e adesso ritorniamo alla disciplina, che dopo lunghi anni di severissima disciplina e di educazione poi potevano appunto fare le geisha, e alcune erano veramente famosissime. Quindi una schiava di gran valore. Tant'è vero che si potevano permettere, parliamo di top, parliamo di star, no? Quelle, sì, che venivano poi dipinte nelle stampe, negli ukiyo-e, queste stampe giapponesi, erano i quadri d'allora, la produzione dei quadri di massa, perché erano stampe, no? E quindi i ritratti di queste belle facevano il giro di tutta la città, di tutto il paese, però erano comunque schiave, erano vendute. Quindi non c'è, e che margine di libertà ha la geisha? Nessuno? Nessuna. Se era fortunata poteva sperare di essere mantenuta a vita da un facoltoso mercante o da un facoltoso militare, samurai, altrimenti non poteva che, una volta affiorita la sua bellezza e la sua freschezza, scendere di rango. Da chi dipende questa libertà della geisha di essere prostituta o di non esserlo? Da cosa dipende? Non essere prostituta nel senso che non ha molti clienti, ma ne ha forse uno. Ecco perché non la chiamano prostituta, ma si tratta comunque di una donna in vendita. Me... Quindi, insomma, il nostro ascoltatore, sì, ha ragione. Cioè, non... Sì, il nostro ascoltatore ha ragione. La geisha è una... Però era colta, ecco. Esiste il fatto che la geisha possa non darsi? Ma non per sua libera scelta, ma perché socialmente non è accettabile. Se lei è ormai proprietà di un ricco mercante, di un ricco samurai, non si può dare a nessun altro. Ma non perché è libera di farlo, ma perché non lo deve fare, punto. Per dare l'idea, insomma, di quello che doveva essere la vita di queste geisha in quel periodo, cioè stiamo parlando sempre della seconda metà del XVIII secolo, XIX secolo, che poi ci sono ancora le geisha in Giappone, oggi anche se pochine. Che differenza c'è tra ieri e oggi? Beh, oggi sono non sono vendute, perché non è legale. Quindi sono donne libere. Volontariamente scelgono di fare delle geisha. Io in Giappone ho visto anche delle trasmissioni televisive in cui appunto si parlava di queste ragazze che decidevano di studiare. Ormai ci sono delle scuole e soprattutto adesso non sono più obbligate a stare nella scuola, perché quando venivano vendute ovviamente erano obbligate a vivere lì da chi le aveva comprate. Adesso no, possono avere un proprio appartamento e appunto andare a recarsi a lavorare appunto in locali, in feste, eccetera. Senti, noi, scusa, purtroppo vediamo soltanto appunto la parte, diciamo, coreografica, no, di queste belle colte, raffinate, però la triste verità è che erano schiave, né più né meno. C'è un altro dato che vorrei dare per proprio chiarire la situazione. Queste geisha vivevano nel quartiere di Yoshiwara, che è un quartiere più grande di piaceri, no, di Edo, di questa città di Edo, che oggi è diventata Tokyo, e in pratica loro, quando morivano, venivano inumate in un tempio, in un monastero buddista che è in quella zona, che si chiama Jokanji. E vedendo i registri, no, delle inumazioni delle geisha, l'età media del decesso è inferiore a 23 anni. Loro avevano proprio una vita molto breve, perché dura. Perché? Cominciavano prestissimo, erano ragazzine. 12-13 anni? Sì, 12-13 anni, che vivevano confinati in lupanari. Erano educate duramente, erano controllate, non potevano fare niente di proprio no, per sé, cioè loro da sole non potevano fare niente. Ancora certe volte si vedono a Kyoto queste Maiko-san, queste geisha che si recano appunto al lavoro e che sono costrette a camminare su dei sandali altissimi e hanno bisogno di due assistenti ai due lati per sorreggere, perché sono semitrampoli. Sì, perché sono semitrampoli e poi perché hanno addosso un 20 kg di roba, Cioè, il vestito della geisha è un vestito tradizionale che pesa. Come un'armatura? Pesa tantissimo. È come un'armatura, sì. In pratica sono delle bamboline messe nell'ovatta. Delle bamboline immobili. Di questa... questo sorriso loro fisso, perché hanno questo cerone bianco che appunto per far risaltare la bocca piccolissima e gli occhi e i capelli neri. Insomma, è dipinta, no? È una bambolina dipinta. È di ceramica, poverina. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.